Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 10:58 minuti primi. E passiamo a parlare di un altro argomento e in particolare di una proposta di legge presentata lo scorso marzo da alcuni parlamentari della Lega Nord a difesa del diritto di proprietà. Ne parliamo con Giuliana del Legal Help del Teatro Valle Occupato, appunto uno sportello legale che si occupa di consulenze sul diritto d'autore, e poi insomma Giuliana in quanto avvocata si occupa di tutte le questioni che hanno a che fare col diritto relativo al Valle, quindi statuto eccetera eccetera. Pronto Giuliana, ci senti? Sì, ci sono. Perfetto, ciao. E quindi niente, volevamo parlare un po' con te di questa proposta di legge di alcuni parlamentari della Lega Nord, insomma se la vuoi illustrare. Allora il 21 marzo, come tu hai già detto, è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge a difesa del diritto di proprietà da onorevoli della Lega Nord, alcuni peraltro anche indagati. È una proposta di legge che inasprisce le pene per le occupazioni per tutelare più efficacemente il diritto di proprietà e il possesso di immobili. E questa proposta propone un inasprimento delle pene a modifica dell'articolo 633 del codice penale, inasprimento che arriva ad innalzare la reclusione per chi occupa fino a 6 anni e la multa erogabile fino a 20.000 euro. Quindi la preoccupazione di questi onorevoli qual è? E infatti leggo proprio dal testo della proposta di legge. Allora, virgolette, i recenti fatti di cronaca, questo è quello che c'è scritto proprio nel testo della proposta di legge, i recenti fatti di cronaca evidenziano il pericolo che l'occupazione di immobili, soprattutto quando si tratta di alloggi abitativi, corra il rischio di restare impunita, dal momento che il diritto all'abitazione viene considerato tra i beni primari collegati alla personalità e come tale rientrante tra quei diritti fondamentali della persona, tutelati direttamente dall'articolo 2 della Costituzione. In proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'occupazione abusiva di un'abitazione fosse giustificata, facendo leva sia sulle condizioni di indigenza che non consentono di rivolgersi al mercato libero degli alloggi, sia sullo stato di necessità riferito al diritto all'abitazione e al diritto alla salvaguardia della salute. Allora, chiude le virgolette. Quindi è singolare notare che proprio nel momento in cui la giurisprudenza osa tutelare i diritti dei cittadini più deboli, ecco che arrivano i tentativi puntuali di modificare, di tutelare posizioni dei più forti. Insomma, non ne sentiamo proprio il bisogno di una proposta di legge del genere. Ovviamente sono interventi spot che ridefiniscono i reati con assolutamente nessuna possibilità di essere approvati, ma sono provocazioni, propaganda elettorale che parla a un pezzo del proprio elettorato. E alla faccia del continuo richiamo dei partiti alla pacificazione sociale, si crea volutamente il conflitto invece di dare risposte. Quindi non può essere certo questa la risposta di fronte ai drammi sociali, di fronte a un dramma sociale che esplode. L'unica soluzione che propone il potere politico è quella dell'inasprimento delle pene. Quindi si tratta di vigilare continuamente. Del resto, Giuliana, insomma, questo tema, come dire, è molto coerente con quanto andremo a dibattere domani in questo convegno organizzato da Radio Onda Rossa proprio al Teatro Ballo Occupato. Mi senti? Sì. Sì. Al Teatro Ballo Occupato, libertà di conflitto, il nemico interno, ordine pubblico e diritto penale da Genova 2001 ad oggi, nel senso che proprio da Genova 2001 tutte le lotte sociali appunto sono state ridotte sostanzialmente a una questione di ordine pubblico, esatto. E quindi sono aumentate moltissimo le denunce per reati vari, ci sono stati morti sulla strada, uccisioni da parte della polizia, morti in casa. carcere, sempre ad opera delle forze dell'ordine, l'applicazione delle zone rosse e la penalizzazione, insomma, e la risposta tutta basata sulla repressione della polizia e dei tribunali alle lotte sociali, appunto, dai terremotati alle lotte contro le discariche, alle lotte territoriali varie, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, mi sembra che questo dato che tu ci stai portando sia che si inserisca in questo quadro. Certo, certo, sì, perché poi è un quadro, se noi ci riferiamo a quello che succedeva invece prima, negli anni 70, in ogni caso la forza dirompente dei movimenti era anche capace di dare, di indirizzare diversamente, no? Non solo nella realtà sociale, ma anche c'era proprio la possibilità, la forza di modificare le norme. Le norme in qualche modo si adeguavano ai mutati processi sociali, e invece adesso, insomma, ci ritroviamo di nuovo a questa repressione fortissima rispetto a tutto quello che sta succedendo. Sì, anche all'utilizzo alla sperimentazione prima e poi all'utilizzo di strumenti giuridici ad hoc, no? Dal DASPO al reato di devastazione e saccheggio, che viene la cui applicazione viene ampliata sempre di più. Ambiti che poco hanno a che fare con la devastazione e saccheggio, per quello che capiamo noi profani della legge. Sì, sì, sì, sì, sì, certo, proprio il senso è proprio quello. È una proposta di legge che ovviamente invita, cioè crea un conflitto proprio su questo, perché se è una modifica proprio in materia di invasione di terreni, che è quello dell'articolo 633 del codice penale, che recita appunto, parla appunto di invasione di terreni o di edifici. Però queste, come dicevo prima, queste proposte di legge sono veramente interventi spot, che non hanno nessuna possibilità di essere approvati, ma sono il segnale, sono provocazioni, sono propaganda elettorale, e per questo bisogna essere molto vigili e attenti e non far passare, anzi informare. In questo senso l'informazione è importantissima. Bene, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti ringraziamo, insomma, ti ringraziamo e, come dire, ricordiamo l'appuntamento di domani alle 17:30 al Teatro Vallo Occupato. Benissimo, grazie. Grazie a te, ciao. Ciao. E a proposito di domani, vi mandiamo lo spot, così vi ricordate nel dettaglio di cosa si parla.